puntuali, Jazz Live, 11:31 minuti in questa vigilia di weekend. Un timido e velato sole ci sta tenendo compagnia. Adesso Alfredo dice: tanto per Pasqua e Pasquetta piove. Ribuongiorno Alfredo. Buongiorno, tanto per Pasqua e Pasquetta piove. Come ogni anno, per cui prossimo il sud mette bello e questo ci rassicura. È un venerdì di passione, tutti a Palermo. È una passione musicale, una passione di jazz in questo caso, è meno ecumenica ma è sempre molto carica per quanto riguarda il contenuto, che va dal Torrione ascoltato per voi. Invece ci sposteremo a Bergamo con la trasferta assolutamente densa di musica per quanto riguarda il weekend scorso del nostro Alfredo, che ha dato un contributo, se vogliamo, come inviato esterno. Ora riportati alcuni brani dei concerti. Ho notato, Alfredo, presenze non solo Ferrara, Bergamo, San Lazzaro, Bologna, di alcuni artisti come Bobby Watson, che l'abbiamo trovato in tutte e quattro le sedi che ho citato. Le tournée e anche Miguel Zenon, un Miguel Zenon stellare. Sia a Ferrara, stellare sia anche a Bergamo. Immagino, perché col suo quartetto, non dimentichiamo l'interplay, la bellezza dell'insieme, del dialogo che ha con l'ormai fidato Luis Perdomo al pianoforte, che si è rivelato veramente non solo ben inserito ma che ha dato un valore immenso alla struttura musicale, potente e allo stesso modo delicata, vorrei aggiungere, sì, a questa sorta di saudade caraibica, no? Sì. Malinconia è delicata e allo stesso tempo anche molto forte, sì. Molto potente. Poi sa bene armonizzare, costruisce strutture musicali, cioè bravissimo Perdomo. Intanto ma che il re chiaramente Zenon, che Zenon è micidiale, sì, è incredibile, sì, sì. E allo stesso modo Zenon, con questo sotteso tropicalista, abbiamo aggiunto anche caraibico, così il bugalù è presente, i ritmi portoricani ci sono, però è bello giocare per trovarli anche, sì, perché poi sono forti tutto già, poi inserito in questa grammatica bebop, sì. E lui ha questa capacità di fare soli anche lunghissimi però senza mai perdere il filo, perché molto spesso i musicisti, anche quelli bravi, hanno dei passaggi meccanici per recuperare le idee, no? Invece lui proprio di quei musicisti, e sono inseriti, pochi, che va avanti, uno dei numeri uno direi per quanto riguarda la produzione attuale. Dal suo ultimo disco stiamo già ascoltando un brano, Musica de las Americas di Miguel Zenon, con il quartetto che abbiamo ascoltato sia a Bergamo che a Ferrara. Prima di lasciarvi con la musica aggiungo che solitamente le sonorità che noi abbiamo appena descritto, caraibiche, bugalù, Porto Rico e chi più ne ha più ne metta, hanno una forza, cioè sono molto presenti, non è una bossa nova che magari ti fa intendere, sono molto incisive. Ecco, lui riesce invece a portarti nel pensiero, a giocare, a ritrovarle, ma ci sono, e come, e intanto ce lo ascoltiamo, a tra poco. Torrione Invisibilio, una goduria ascoltare queste note dal quartetto, dove il frontman Miguel Zenon ha entusiasmato, immagino lo abbia fatto anche a Bergamo. Aggiungo al contrabbasso Hans Glosching e Dan Bass alla batteria, per una ritmica che ovviamente è stata precisa. Le note di Luis Perdomo al pianoforte, grande umiltà anche nel mettersi a disposizione di Miguel Zenon, che con grande concentrazione, sì, ok, ha entusiasmato, ma ha sempre mantenuto una lucidità incredibile. Ottimo lavoro, il disco Musica de las Americas è consigliatissimo. Sì, quindi... quando il patron del festival, Roberto Valentino, che ringraziamo peraltro per l'ospitalità e la gentilezza, ha detto dal palco: ci sarà una modifica del quartetto? Detto, no. E poi dice: beh, la batteria è Dan Waste. Dico: ma è meno male. Cioè... beh, non è andata malissimo. No, comunque, bravissima anche Harry Cole. Sì. Cioè, questo gruppo c'ha una solidità interna, di un interplay tra i giochi, tra i vari strumenti, che è davvero invidiabile. Beh, il brano che hai trasmesso ne è una prova. Questo insomma. Comunque, questo lo diamo anche dato come censimento del concerto di Zenon a Bergamo. Quindi, restiamo poi nella seconda parte, sì, con altri concerti a Bergamo, assolutamente. E intanto aggiungo veramente un 3 su 3 al Torrione negli ultimi incontri. Dan Formanek, contrabbasso, concerto, anche quello di livello altissimo. Mark Copland, una sorpresa, pianista con capacità narrativa molto avvolgente e coinvolgente. E poi Miguel Zenon, che a sua volta ha dato un 3 su 3 importante al Jazz Club Estense. Questa sera Tom Ollendorf open house il progetto, il featuring di Tim Garland, per concludere il quartetto con Conor Chaplin al contrabbasso, Mark Michel alla batteria. Questa volta siamo in Inghilterra, jazz, sì, inglese. Il progetto è il disco open house, un disco del 2023, dove al trio, ovvero sia Ollendorf, Chaplin, Mitchell, chitarra, contrabbasso, batteria, ci aggiungeva nel disco l'acclamatissima sassofonista Ben Wendell in 4 brani. Qui, sì, invece abbiamo Tim Garland che prende il posto facente funzione. Beh, allora, lui è giovane, già acclamato, questo chitarrista che è traditional, però recupera le varie esperienze precedenti, anche contemporanee, dice il depliante dal compianto a Bercombi, come che è compianto, fino al vivissimo Bill Frisell, che è sempre presente, che è presentissimo, insomma, c'è questa classicità capace di armonizzare, che insomma fa della chitarra uno strumento estremamente affascinante. È una distribuzione IRD e veramente con Tim Garland, musicista inglese che vanta collaborazioni di grande livello. Ollendorf ha un'estetica post bop moderna, cool, che fa armonizzazioni piuttosto che del virtuosismo il proprio punto di forza. Suono pulito alla chitarra elettrica, ben distante dal rock, fa pensare a John Abercrombie, come ha già citato Alfredo, ma anche John Scofield e Bill Frisell, sempre però con una sua originalità. Ho selezionato Carnival per darvene un assaggio, poi torniamo in diretta. Tutto ciò questa sera al Torrione alle ore 21:30. sono musicisti, tra l'altro, che si alternano come presenza al Torrione. A inizio hanno un progetto EYM, dove abbiamo sentito Marc Michel alla batteria, sempre nel programma del Torrione. Dopodiché nel 2022, tornando un po' più indietro con il trio di Harry Honing, abbiamo ascoltato il chitarrista Tom Ollendorf, e insomma si alternano, girano un po' con collaborazioni, di cui è anche bello trovare le diversificazioni nel suono. Questa sera, quindi, 29 marzo, si apre il weekend al Torrione. Il featuring è Tim Garland, Tom Ollendorf, Open House, il lavoro che inizierà insomma questo spazio pre-pasquale, pre-pasquali al Jazz Live con Pasquali. Ah, oh, che nuovo, simpatico calambore. Sai che non l'ho mai sentita questa. Domenica non ci sarà il concerto. Domenica è Pasqua. Domenica non c'è, quindi domenica con Serico Tonali Istantanea vi dà l'appuntamento alla prossima settimana, ma sabato, sabato invece. Sabato c'è. E troviamo una voce italiana di grande spessore, Maria Pia De Vito, che ha una varietà di ricerche, allo stesso tempo espressione canora, tra le più importanti. Sto parlando bravissima, a livello internazionale. È bravissima. Tra l'altro, prima altri dischi, poi parleremo di Bergman. L'anno scorso era lei la, la direttrice artistica, che poi ha lasciato il passo a Giolovano. Ma l'anno scorso era lei, quindi ci fu una grande attenzione alla voce l'anno scorso nel festival. Allora, il progetto è This Woman's Work, è un progetto con attenzione e specificità al femminile, e tra l'altro ritroverò la batterista Evita Polidoro, che ho conosciuto al Binario per un concerto e un disco che ha avuto diversi riconoscimenti tra le nuove proposte. Ok, ma ne parleremo. Allora, il lavoro invece è incentrato già dal titolo This Woman Works, vede, oltre che alla voce, Maria Pia De Vito, Giacomo Ancillotto alla chitarra, troviamo Matteo Bortone, che sarà questa volta al basso elettrico, per cui questa curiosità mi rimane per un musicista che ho sempre visto al contrabbasso, sempre ascoltato al contrabbasso. Ho contattato Maria Pia De Vito e sentiamo appunto un inizio di conversazione per anticipare i contenuti del concerto. Buongiorno Maria Pia, benvenuta. Buongiorno, grazie. Cosa ascolteremo in occasione appunto del concerto al Torrione? Dunque, ascolterete This Woman's Work, un concerto, un progetto che si ispira a riflessioni sulla vita delle donne, sulle strategie di sopravvivenza che le donne mettono in atto in un mondo che non è esattamente, diciamo, facile, ecco, per le donne. E purtroppo, insomma, ne vediamo di parecchie ogni giorno rispetto a questo. Ma al di là di quelle che sono le certe evidenze tragiche, diciamo, c'è proprio il, come dire, il lavorio quotidiano per superare certi pregiudizi di base, ecco. Tutto mi è stato ispirato da delle letture, come per esempio quello del libro di Rebecca Solnit, Memorie della mia inesistenza, oppure Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Quindi c'è una collana di brani, rivisitazioni di brani altrui, alcuni brani originali, fatta insieme a dei musicisti giovani e creativi come Matteo Bortone, Giacomo Ancillotto, Mirko Rubegni, Evita Polidoro. E quindi tra appunto jazz, elettronica, sperando il rock e il free jazz. E anche letteratura, citazioni letterarie di ispirazione per questo quintetto. Io ho conosciuto a un concerto Evita Polidoro, giovane batterista. E beh, sì, è una scelta bella questa, non per il genere, ma per la possibilità che viene. Anche lei è molto giovane, tra l'altro, a tale proposito, per cui sì, ho trovato sì. Una scelta che mi ha entusiasmato. Come è arrivato questo incontro? Beh, semplicemente l'ho sentita e mi è piaciuta molto questa concentrazione leggera, questo interplay sempre motivato, questo non essere mai troppo fuori, muscolare, cioè non è mai dimostrativa, ecco. Per questo mi ha attratto veramente, al di là dei generi, insomma. E a me piacciono molto i batteristi dal tocco leggero, non so, l'ultimo con cui ho lavorato prima di vita è Alessandro Paternesi, che è un'altra meraviglia e ha questa caratteristica di assecondare molto i volumi, che per me chiaramente, che è una voce, è uno strumento che ha delle sue dinamiche, dei suoi limiti, è molto importante. Ma altrettanto devo dire, ho scelto fior da fiore, come si suol dire, per i musicisti, sì. Perché anche Giacomo Ancillotto ha questa caratteristica di essere un alchimista di suoni che non spinge mai, diciamo, oltre quello che è il dialogo che stiamo facendo. Detto ciò, si può attivare anche a dinamiche piuttosto potenti, come capita nella rilettura per esempio di Lonely Woman di Ornette Coleman. Quando c'è da dare giù, è dare giù, ma è corale, ecco. grande esperienza, lei tra l'altro ha questo uso della voce, oltre che come capacità canora, anche come sostituirla a uno strumento, lo fa con grande maestria, grande talento, è una musicista che ben conosciamo. Io ho alcuni dischi in cui è presente con Trovesi, altro musicista italiano di grandissimo talento e di storicità nel jazz quanto mai importante. Bravo Willy, bravo Maria Pia, bellissimo pezzo. Grazie. Questo conclusivo segmento di conversazione ho voluto saperne di più in ambito di elettronica, che trovo costantemente vicino alla descrizione di ogni musicista. Come sensazione, seppur con caratteristiche originali e personali, un musicista è Matteo Bortone, che ha queste realtà che troviamo al contrabbasso. Allora, io ho trovato nella descrizione vicino a ogni musicista elettronica. Come sarà il rapporto con l'elettronica e il suonare? Ecco, diciamo così, l'acustico per quanto riguarda queste composizioni. Sì, diciamo innanzitutto che Matteo in questa compagine suona il basso elettrico e questo dà già, come dire, un contorno sonoro in cui l'elettronica si mescola bene, si inserisce. Sì, ma l'elettronica, ripeto, ha sempre funzione di soundscape, di tessitura, di colore sonoro, di ambiente, ecco, solo in un'occasione diventa anche un motore di groove, ma che appare e scompare, perché poi la libertà di suonare ritmicamente certo, senza avere un click, come dire, no? Per cui io tendo a non usare mai l'elettronica in termini di groove, sì, oppure, ripeto, come una nuvola passeggera che lancia uno stimolo e poi però ci lascia liberi di agire. Sì, sei stata molto chiara, certo. Intanto in collaborazione con il Crossroad Jazz e altro in Emilia Romagna sarà al Torrione per la serata di sabato 30 marzo. Io ti ringrazio tantissimo Maria Pia e ci troveremo a Ferrara. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. Domani sera in collaborazione con Crossroad Jazz e altro in Emilia Romagna. Allora, a tale proposito do qualche notizia sempre live per questa sera. Sapete, no, con Bologna, la Camera Jazz and Music Club, c'è la presenza della nostra città all'interno del Crossroad. Le abbiamo già conosciute, Asma Dalenas, alle ore 22 al Camera Jazz and Music, ovviamente con Cristina Renzetti, vi sarà la presentazione del loro ultimo lavoro e anche qualche anticipazione. Per cui venerdì 29 marzo, questa sera, Jazz Crossroads, il jazz in Emilia Romagna e altro, As Maddalenas alle ore 22. Ci accompagna Dave Brubeck alla pubblicità con Paul Desmond, quindi un bel accompagnamento, direi. Noi sì, direi che insomma non è per niente male. Noi rientriamo a breve e avremo una colonna sonora dall'ultimo Bergamo Jazz.